GR24, il sole 24 ore. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione GR24, ben ritrovati. In apertura le parole del Capo dello Stato in occasione a margine della cerimonia per l'anniversario della Guardia di Finanza. Napolitano è intervenuto sul coinvolgimento presunto del Quirinale nelle trattative Stato-mafia di cui si parla in queste settimane. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, serena e trasparente, una campagna di sospetti costruita sul nulla, così Giorgio Napolitano controbatta al coinvolgimento del Quirinale nella presunta trattativa tra Stato e mafia, un'inchiesta in cui l'ex presidente del Senato Nicola Mancino è indagato per falsa testimonianza, una campagna costruita sul nulla, dice Napolitano, si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con conversazioni telefoniche intercettate sull'indagine delle stragi di mafia del 92 e del 93 e si sono date interpretazioni arbitrarie e tendenziose, talvolta persino manipolate. Il Presidente ribadisce l'assoluta correttezza della Presidenza della Repubblica e dei suoi collaboratori, ispirati a soltanto a favorire la causa dell'accertamento della verità. Ho reagito con serenità e massima e trasparente, rendendo noto il testo di una lettera riservata al Procuratore Generale della Cassazione, assicura Napolitano che continuerà ad adoperarsi affinché vada avanti l'azione della magistratura. I cittadini possono dormire tranquilli, spiega il Presidente della Repubblica, terrò fede ai miei doveri costituzionali. Infine, sulle intercettazioni, Napolitano ribadisce, è un tema che va risolto. Per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito, proprio nuove intercettazioni appaiono sulla stampa e riguardano anche il Quirinale. Ci racconta tutto Raffaella Calandra, buongiorno Raffaella. Almeno due telefonate con la voce diretta del Capo dello Stato non sono utilizzabili agli atti, ma nel frattempo sarebbero state ascoltate. Molte di più invece quelle già trascritte tra il suo collaboratore e l'ex ministro dell'Interno ora indagato. Gli atti della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-mafia lambiscono direttamente il Quirinale. In almeno due casi, come dicevamo, secondo indiscrezioni, anche proprio la voce del presidente Napolitano sarebbe stata ascoltata dagli inquirenti siciliani, anche se quelle conversazioni con Nicola Mancino andranno comunque distrutte. Sono i giorni convulsi della scorsa primavera in cui colui che fu il titolare del Viminale nel 92 è preoccupato per l'indagine palermitana e cerca sponde sul colle più alto. Il consigliere D'Ambrosio lo rassicura e dal Quirinale parte anche l'ormai famosa lettera di un altro consigliere Marra per la Procura Generale della Cassazione. Lui sa tutto, l'ha detto anche lui, dice al telefono D'Ambrosio con Mancino. La lettera va inviata anche con la mia condivisione. Quellui, secondo la deduzione degli inquirenti, non può che essere il Capo dello Stato e quella lettera doveva esplorare l'esistenza o meno di contrasti nella gestione della vicenda tra le procure di Palermo e Caltanissetta che indagano sullo stesso tema, ma da punti diversi, specificò il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, convocato dalla stessa Cassazione. Insomma, non esistevano gli estremi della avocazione che qualcuno invece, a cominciare da Mancino, desiderava, cioè togliere il fascicolo a Palermo per passarlo al suo superiore. L'ha ribadito pubblicamente qui a Lamezia ieri anche lo stesso Grasso. Chi pensava di strumentalizzarmi, ha detto, si sbagliava. E dagli atti dell'inchiesta palermitana spunta anche il nome del 7 volte presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, fatto a verbale dalla figlia di Salvo Lima. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra per questa pagina, le intercettazioni. Avete sentito che sulla trattativa Stato-mafia la reazione del Capo dello Stato Napolitano, che ha parlato a margine della cerimonia della Guardia di Finanza, dove ha parlato anche il Premier Mario Monti, è tornato sulla questione della lotta all'evasione fiscale, è una priorità assoluta per il nostro governo perché erode la legalità e mina il patto con i cittadini, ha detto Monti, sentiamo. Questa violazione dei principi di equità, solidarietà e giustizia tra concittadini e tra generazioni non è più tollerabile. In particolare in un momento in cui il nostro Paese è attentamente monitorato dagli osservatori internazionali, le dimensioni e la pervasività del fenomeno costituiscono un vulnus gravissimo alla credibilità dell'Italia. Così Monti, intanto sulle tasse arriva anche l'allarme di Confcommercio, l'assemblea annuale riunita oggi, il presidente Carlo Sangalli ha parlato di rischio Caporetto a proposito dell'aumento dell'IVA. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Una Italia più povera, dove nel 2012 il PIL pro capite torna ai livelli del 99, consumi a quelli del 98, un balzo indietro di quasi 15 anni. È uno scenario assente fosco quello descritto al presidente di Confcommercio Sangalli nella sua relazione annuale. A dare la mazzata finale sarebbero ulteriori aumenti dell'aliquote IVA, tassa che Sangalli ha appunto definito una caporetto per le famiglie italiane. Gli aumenti tra il 2011 e il 2014 rischiano di tradursi in minori consumi reali per circa 38 miliardi di euro, stima Confcommercio, che chiede dunque di derubricare definitivamente l'aumento programmato dell'IVA come clausola di salvaguardia dei saldi della manovra Salva Italia e più in generale lancia un vero e proprio allarme: giù le tasse, l'Italia produttiva rischia lo schianto. Sentiamo un passaggio di Sangalli. Meno e migliore spesa pubblica da una parte e meno evasione e delusione dall'altra sono quanto va realizzato per ridurre a vantaggio dei contribuenti in regola le aliquote legali di prelievo fiscale, liberando così l'economia e sostenendo la crescita. L'itinerario deve essere chiaro e la decisione politica deve essere fortissima, ed è una decisione che deve essere assunta ora, proprio ora. Insomma, diteci quando si inizierà a ridurre le tasse. Lo chiediamo a chiare lettere. La risposta di Passera era a stretto giro. Lo sforzo che si sta facendo in termini di spending review è proprio finalizzato a questo, evitare un ulteriore aumento dell'IVA, ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico prendendo la parola qui in Assemblea, aggiungendo che nei prossimi mesi lo sforzo del Governo sarà la crescita e l'occupazione. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Voltiamo pagina. Nuova decisione di un giudice su Fiat. Il Tribunale di Roma ha infatti condannato il gruppo di Sergio Marchionne per discriminazioni contro la FIOM a Pomigliano. Sentiamo. È una sentenza che fa già discutere, quella con la quale il Tribunale di Roma ha dato ragione alla FIOM e ha condannato la Fiat per discriminazioni a Pomigliano. Per ordine del giudice, 145 lavoratori iscritti al sindacato delle tute blu della CGIL dovranno ora essere assunti nello stabilimento campano dove si produce la nuova Panda. 19 avranno anche diritto ad un risarcimento di 3.000 euro. La FIOM era stato l'unico sindacato a non firmare gli accordi sulla nuova Pomigliano e a fine mese, fra i 2.000 lavoratori riassunti nella NewCo, non figurava nessuno dei suoi iscritti. Le possibilità che ciò accadesse casualmente erano meno di una su 10 milioni, secondo il sindacato, che ha così deciso di rivolgersi alla magistratura. Una decisione che non è piaciuta agli altri sindacati dei metalmeccanici. In particolare alla UILM Campania, che non esclude un ricorso contro la sentenza. Nessun commento invece per ora dalla Fiat. Per l'ennesima volta il Lingotto viene condannato perché sta violando le leggi e la Costituzione italiana, afferma invece il numero uno della FIOM Landini, che invita le forze politiche ad intervenire per garantire le libertà sindacali negli stabilimenti e nello stesso tempo la continuità della presenza della Fiat in Italia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questa dunque la notizia. Qua in studio con noi Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, per capire il senso e le conseguenze che può avere questa notizia. Andrea. Sì, dal punto di vista statistico il ragionamento che sta dietro la sentenza non fa una piega. Se su 4.000 palline ne ho 3.600 bianche e 400 rosse, la probabilità di estrarne 2.000 bianche di fila è vicina a zero. Di qui l'opinione del giudice di che ci sia una discriminazione. Più controverso è il rimedio, cioè l'imposizione a Fiat di assumere i 145 iscritti a FIOM, ed è questo che abbiamo visto ha generato immediatamente una polemica politica che si è spaccata sulla faglia tra destra e sinistra. Proprio la frammentazione sindacale insieme a una normativa zoppa sulla rappresentanza in fabbrica ha contribuito a una situazione che è cambiata radicalmente da quando 5 anni fa, lo ricordiamo, Sergio Marchionne diceva che preferiva trattare con i sindacati italiani rispetto a quelli americani. 5 anni dopo siamo a questa situazione, è difficile per ora dire quali saranno le conseguenze per esempio sull'operatività di Pomigliano. Un'ultima osservazione però si può fare: gli stabilimenti Fiat in Italia viaggiano a mezzo servizio, se va bene c'è una crisi gravissima nel settore auto, sicuramente l'ultima cosa di cui il settore ha bisogno è una situazione di questo tipo. Grazie dunque anche ad Andrea Malan, e così chiudiamo anche la pagina su questa nuova sentenza del Tribunale di Roma a proposito di Fiat. Adesso parliamo dell'esame di maturità per quasi 500.000 studenti. Oggi è il secondo giorno delle prove scritte, diverse da indirizzo a indirizzo. Le tracce dei compiti sono circolate su internet sin dalle alle prime ore del mattino. Per quanto riguarda la versione di Greco, al liceo classico è stato scelto un brano di Aristotele che non usciva da 34 anni. L'opinione del professore Enrico Berti dell'Università di Padova, al microfono di Lucio Bondì. Il brano che è stato scelto per la seconda prova della maturità è un passo famoso di Aristotele, perché è l'elogio che egli fa della biologia, della ricerca scientifica nel campo appunto biologico all'inizio del De Partibus Animalium. Però è un brano famoso tra gli studiosi. Secondo me presenta notevoli difficoltà dal punto di vista della traduzione, perché Aristotele si esprime con un linguaggio tecnico, con espressioni che sono conosciute solo dagli specialisti, quindi credo che gli studenti siano stati messi di fronte a delle difficoltà a cui forse non sono abituati. Nel complesso però mi fa piacere che il Ministero richiami l'attenzione su testi importanti nella storia della filosofia e della scienza. E adesso sentiamo anche un parere sulla prova di matematica, così per par condicio, il professor Angelo Guerraggio dell'Università Bocconi, sempre al microfono di Lucio Bondì. Mi sembra che sia i due problemi dell'ordinamento, che le 10 domande, i 10 quesiti proposti siano come grado di difficoltà in linea con le esperienze precedenti, con i temi, i compiti degli anni precedenti. Mi sembra un compito che si poteva fare, insomma. C'era qualche calcolo, come sempre accade, ma forse anche giusto così, qualche calcolo un pochino noioso, un pochino più elaborato, però nel complesso anche i calcoli erano accettabili. Più che altro da notare interessante come ci siano alcuni elementi di novità. Per esempio, nei due problemi mancava il classico studio di funzione, e anche il problema, per così dire, di geometria presentava degli elementi di interesse perché si poteva fare in diversi modi. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. I titoli: trattativa Stato-mafia, l'ira di Napolitano sul coinvolgimento del Quirinale, ha detto Napolitano, insinuazioni costruite sul nulla. Monti, la lotta all'evasione fiscale resta una priorità assoluta del governo. Intanto la Confcommercio all'assemblea annuale attacca, l'aumento dell'IVA previsto è un caporetto per famiglie e imprese. Fiat ha discriminato la Fiom e il Tribunale di Roma adesso condanna il Lingotto ad assumere 145 operai del sindacato di Landini. Euro 2012, oggi scattano i quarti, si parte con Portogallo, Repubblica Ceca. E noi partiamo proprio da qua, la seconda parte di GR24, Euro 2012. Sentiamo oggi Portogallo, Repubblica Ceca. Normale che ad aprire le danze sia il principe dei ballerini, Cristiano Ronaldo, che dopo le prime due partite sulle punte ha fatto i numeri nella terza. Il Portogallo è sulle sue spalle, come deve essere in tornei così, che bruciano tutto alla svelta. Più delle squadre e delle tattiche, spesso può la benzina dei campioni. Non ne ha di veri la Repubblica Ceca, anzianotta, quadrata e ovviamente sfavorita. Del resto si è detto per decenni che in un calcio senza porte e senza l'obbligo del gol i portoghesi avrebbero vinto un sacco di mondiali. Poi è arrivato Ronaldo e i rossi sono entrati con stabilità nell'aristocrazia quantomeno europea. Una finale persa in casa, un quarto comunque raggiunto nel 2008 e ora una semifinale che pare a portata di mano, con chi sarà tra Francia e Spagna che, la spariamo grossa, ci pare il quarto di finale più incerto. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, visto che siamo all'inizio di questa seconda fase degli europei di Polonia e Ucraina, si può iniziare a tirare un primo bilancio. Pronti via, ripartono gli europei con i quarti di finale. Una bella occasione per dare le pagelle sia ai paesi organizzatori sia alle squadre in campo che tanto per cambiare imitano nei risultati gli andamenti dell'economia. L'euro forte anche nel pallone è infatti quello tedesco, con questo strano paradosso che la squadra di Gomez, unica ad aver chiusa la prima fase con 3 vittorie, rischia di essere sospesa per eccesso di rialzo. E contro la piccola Grecia, che gode delle simpatie di chi non ama lo strapotere tedesco, rischia di far la fine di Golia. È uno strano derby di politica, arte e economia questo tra Grecia e Germania, con la cancelliera Merkel in prima fila nell'arena di Danzica. Il bello è che tra i greci c'è un Samaras, in questo caso bomber trentenne e omonimo del neopresidente. Ottime pagelle intanto vanno assegnate ad Ucraina e Polonia, tutto ha funzionato bene senza incidenti di rilievo, a parte quello con i tifosi russi a Varsavia. Belli gli stadi, ottimi i servizi, perfino gli arbitri, a parte il gol fantasma non dato all'Ucraina nel match con gli inglesi, si sono mostrati all'altezza. Dovremo erigere una statua a Platini, dice Lech Walesa, indimenticabile leader di Solidarnosc. Vedo attorno a me nuove strade, aeroporti, stazioni. Ai miei tempi, cose del genere, non le avremmo fatte neanche in 100 anni. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito dunque la sfida incrociata, il super derby europeo Grecia-Germania interessa anche l'europeo di calcio. A questo proposito, da Atene si attende la notizia del giuramento del nuovo governo. È stato raggiunto ieri l'accordo tra i partiti per un nuovo governo di coalizione. Intanto si apprende che nell'ambito dell'austerità, che dovrà contraddistinguere la gestione di questo nuovo governo Samaras, l'esecutivo avrà un numero minore di ministri, 16, e di sottosegretari, che sono annunciati essere in 20. Il giuramento, dicevamo, è previsto nella giornata di oggi. E adesso con la cronaca torniamo in Italia. È stato fissato a sabato prossimo l'interrogatorio di garanzia di Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, come sapete in carcere da ieri dopo che è arrivato il sì al suo arresto da parte del Senato. Lusi adesso si trova in isolamento in una cella del carcere romano di Rebibbia, passerà questi giorni, così ha fatto sapere, a rileggere le carte del processo per dare una dettagliata e definitiva versione della vicenda finanziaria del partito. Due carabinieri sono morti a Caserta, in una caserma. Sentiamo com'è andata. È avvolta dal mistero la dinamica del tragico episodio che si è verificato questa mattina a Mignano Montelungo, nell'Alto Casertano, dove due carabinieri, il comandante della locale stazione e il suo vice, sono morti a seguito di un conflitto a fuoco avvenuto addirittura all'interno della caserma. Si tratterebbe, stando alle notizie che filtrano ufficiosamente sempre dalle fonti militari, di un episodio di omicidio-suicidio. Le vittime dell'episodio sono Angelo Simone, maresciallo, comandante dei carabinieri del luogo, vicino alla pensione, residente ad Alvignano, un centro a non molta distanza dal luogo, e il suo vice Tommaso Nella, poco più che quarantenne, residente a Sora, in provincia di Frosinone. Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due erano di ritorno da un servizio di pattugliamento effettuato in zona e una volta giunti in caserma avrebbero avuto un diverbio sfociato poi nella tragedia. Uno dei due, secondo la testimonianza di un commilitone che era in un'altra stanza, avrebbe puntato l'arma di ordinanza verso l'altro. Una volta fatto fuoco, l'avrebbe poi rivolta verso se stesso, togliendosi la vita. Sul posto i carabinieri del reparto operativo di Caserta e un PM della procura di Cassino. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Caserta. È stato liberato Bruno Pellizzari, l'italiano rapito dai pirati somali a ottobre del 2010, che era in compagnia della compagna sudafricana a bordo di un'imbarcazione al largo della costa della Tanzania. Lo ha confermato oggi lo stesso ministro degli esteri, Giulio Terzi. E adesso di nuovo in Italia, manca solo un assessore per completare la giunta di Parma, la prima città guidata dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. È durata più di un mese la selezione degli assessori fatta dal sindaco Federico Pizzarotti. Su uno degli ultimi nominati, però, Roberto Bruni, assessore all'urbanistica, ai lavori pubblici e all'energia, grava l'ombra del fallimento di un'azienda, come racconta al microfono della nostra Cristina Carpinelli il direttore della Gazzetta di Parma, Giuliano Molossi. Noi abbiamo appreso questa mattina che il neo assessore all'urbanistica Roberto Bruni nel 2006 aveva una società chiamava Tauma che è fallita, una società che svolgeva attività edile. La giunta la chiamano già la giunta slow, la giunta lenta, è un po' una giunta col contagocce. Ieri è stata nominata anche, spero che su di lei non ci siano delle chiacchiere, anche su di lei, Laura Maria Ferraris, una giovane 36 anni che arriva da Torino, che è stata nominata alla cultura, assessore alla cultura. Adesso manca però ancora un assessorato importante come quello del welfare. Ricordate il caos sul campo calcistico del Marassi a Genoa in occasione il 22 aprile scorso della partita Genoa-Siena? Ebbene, 10 ultra del Genoa sono stati adesso sottoposti a misure cautelari per quella vicenda. La vicenda è quella della clamorosa interruzione della partita Genoa-Siena il 22 aprile scorso allo stadio Ferraris, quando gli ultra genoani, dopo 4 gol subiti dai rossoblù, scavalcarono le recinzioni per fermare il match e costringere i giocatori a sfilarsi la maglia. Dalla telecronaca di Sky Sport. È il capitano. Rossi si sta piegando alla volontà dei tifosi, guardate. Guardate, tutti assecondano la volontà dei tifosi. Scully non se la vuole togliere, Mesto piange. A 2 mesi di distanza sono arrivati i provvedimenti della magistratura. 10 misure cautelari per altrettanti ultra, 7 sono finiti ai domiciliari, per altri 3 è stato disposto l'obbligo di dimora. Agli ultra, tra cui figurano i capi dello storico gruppo di tifosi della Brigata Speloncia, Piermarco Pellizzari, il Cobra e Fabrizio Fileni, Tombolone, vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. Un centinaio tifosi rosso-blu complessivamente indagati. Alle misure cautelari si aggiungono 120 DASPO, i divieti di accedere alle manifestazioni sportive emessi dalla Questura di Genova. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si conosceranno solo tra qualche tempo le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato ieri manifestamente inammissibile la questione di legittimità in merito alla legge 194, la legge sull'aborto. Cesare Mirabelli, intanto presidente emerito della Consulta, prova a dare una prima spiegazione al microfono di Valeria De Rosa. La decisione probabilmente sarà un'ordinanza di manifesta inammissibilità, cioè una soluzione puramente processuale che in qualche modo rispecchia i precedenti orientamenti, anche se su aspetti diversi. Perché la manifesta inammissibilità? Quando si ritiene che il giudice non debba fare uso della norma della cui costituzionalità dubita. La Corte si arresta prima rispetto al giudizio sulla costituzionalità della norma. Comunque lei ritiene che possa avere una qualche consistenza sollevare la costituzionalità per quanto riguarda questa legge? Ma pone un problema di fondo e di carattere generale, cioè se e quale tutela debba essere assicurata all'embrione. Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale non nega l'esigenza di tutelare la vita dell'embrione. E lei ritiene che fino a questo momento la Corte non abbia avuto una pronuncia, come dire, esaustiva? Certamente è un tema che è carico di sensibilità contrapposte, è carico di valori e di straordinaria delicatezza, e la Corte in questi casi davvero procede con estrema cautela. E ora parliamo dell'indagine Eurobarometro sugli europei e le lingue straniere, perché gli europei ritengono che conoscere le lingue sia importante, ma rispetto al 2005 è calato il numero di chi è in grado di comunicare in lingua straniera. Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il dato generale è appunto quello che la conoscenza delle lingue straniere è leggermente calata, dal 56 al 54%. Perché sono calate? Perché ad esempio per quanto riguarda la Gran Bretagna sempre meno inglesi parlano lingue straniere e non le studiano nemmeno più. Poi c'è un altro punto interessante ed è questo, che in tutti i paesi dell'allargamento lo studio del russo e in certi paesi del tedesco era obbligatorio sino al 2004, ora non lo è più e quindi questo ha indotto una certa riduzione del numero delle persone che studiano le lingue straniere. Però questo dato viene compensato da un dato molto interessante: attraverso l'uso dei social media l'uso dell'inglese è passato dal 26 al 36%. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Filippo Reggi regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.